31 marzo, seconda parte. Allora, una gran parte della aspirazione dell'uomo a una verità fondata universalmente e indipendente da qualunque condizione, deriva proprio dalla modalità che l'uomo usa per pensare di giungere a questa verità, e cioè al linguaggio. È nel funzionamento del dispositivo linguistico, diciamo, fa parte del funzionamento del dispositivo linguistico la possibilità della parlaccia, cioè, o addirittura della non deliberata corrispondenza con la propria esperienza. E probabilmente sta in questo timore dell'eccesso del linguaggio rispetto al mondo, più che nell'eccesso opposto del mondo rispetto al linguaggio. È per questo che l'altra volta vi ho parlato di questa teoria di questo concetto, introdotto da Levi-Strauss, del cosiddetto significante fluttuante o dell'eccedenza della conoscenza del simbolismo dell'universo rispetto alla significazione. Un'altra conseguenza di questa cosa è che spesso l'uomo ha pensato di poter sganciare non soltanto la corrispondenza col mondo col linguaggio, ma addirittura la propria attività mentale, diciamo in generale il pensiero. Sganciando il pensiero dal linguaggio, e cioè supponendo che ci sia un processo all'interno della mente chiamato pensiero, che non sia interamente linguistico e che il linguaggio in un secondo tempo esprima, anche questo è un modo per, anche questa è una delle cause e delle ragioni probabilmente della persistenza dell'universalismo, cioè di un modo di pensare autofondante del cosiddetto pensiero stesso. Benjamin Reward ha messo in luce più volte questo equivoco, cioè questa idea, insomma, fallace. Benjamin Lee Worth, di cui vi ho già parlato qualche volta. Oggi volevo leggervi l'inizio e la parte finale di un saggio scritto pochi, forse l'anno prima di morire, non mi ricordo. Sì, è morto nel 41, pubblicato nel 1940 dalla Technology Review, che si chiama Science and Linguistics, Scienza e Linguistica. Questo saggio comincia così, quindi ve lo leggo. Ogni persona normale di questo mondo, dopo gli anni dell'infanzia, può parlare e lo fa. In virtù di questo fatto, ogni persona, civilizzata o no, reca con sé per tutta la vita alcune idee ingenue, ma profondamente radicate sul linguaggio e sulla sua relazione col pensiero. A causa della loro solida connessione con abitudini linguistiche che sono diventate inconsce e automatiche, queste idee tendono ad essere intolleranti di ogni opposizione. Esse non sono affatto interamente personali e casuali. La loro base è decisamente sistematica, sicché siamo giustificati nel chiamarle un sistema di logica naturale, un termine che ci sembra preferibile al termine senso comune, che viene spesso usato per la stessa cosa. Secondo la logica naturale, o il senso comune, il fatto che ogni uomo parla scorrevolmente sino dall'infanzia gli conferisce una autorità per quanto concerne il processo con cui formula e comunica. Egli non ha che da consultare un comune substrato logico o razionale che egli ritiene che lui e ogni altro essere umano posseggano. La logica naturale dice che il parlare è soltanto un processo accidentale, che ha a che fare soltanto con la comunicazione, non con la formulazione delle idee. Si ritiene che il parlare e l'uso del linguaggio esprima soltanto ciò che è già essenzialmente formato in maniera non linguistica. La formulazione è un processo indipendente, chiamato pensiero o pensare, ritenuto in larga misura indipendente dalla natura delle lingue particolari. Le lingue hanno delle grammatiche, che si ritiene siano soltanto delle norme convenzionali di correttezza sociale, ma si ritiene che l'uso delle lingue debba essere guidato non tanto da esse, quanto dal pensiero corretto, razionale e intelligente. Il pensiero, secondo questo modo di vedere, non dipende dalla grammatica, ma dalle leggi della logica o della ragione, che si ritiene siano le stesse per tutti gli osservatori dell'universo e rappresentano la razionalità dell'universo, che può essere trovata indipendentemente da tutti gli osservatori intelligenti, che parlino inglese, cinese, Hopi o Choctaw. Basta questo, spero, per diciamo, capire che Woolf la pensa in modo totalmente contrario. Egli non pensa che esista qualche cosa di astratto, chiamato pensiero, che sia indipendente dal linguaggio, ma che al contrario anche il pensiero sia guidato e anzi consista essenzialmente in una attività linguistica anche quando non produce direttamente espressioni linguistiche. In altri termini, la tesi di fondo di Benjamin Woolf è che noi pensiamo con il linguaggio anche quando pensiamo senza parlare a voce alta. E siccome Benjamin Woolf ha passato gran parte della sua vita a studiare lingue la cui struttura era molto diversa da quella dell'inglese, per esempio le lingue amerindie, le lingue dei popoli che abitavano l'America prima dell'arrivo degli uomini bianchi, che gli uomini bianchi hanno largamente sterminato, contribuendo anche alla estinzione di molte di queste lingue stesse, e proprio perché aveva studiato queste si è reso conto dell'influenza, non solo dell'influenza delle lingue su qualche cosa che si chiama pensiero, ma del fatto che sono le lingue che strutturano il pensiero dell'uomo e quindi essendo lingue diverse, basate su strutture diverse, su categorie anche, diciamo, differenti, portano con sé differenti modi di pensare. Questo è uno degli argomenti più forti che io conosca contro l'universalismo. La conclusione di questo saggio, non la conclusione, ma alcune conclusioni intermedie, sono altrettanto interessanti, quindi vi leggo anche qui. Quando i linguisti sono stati in grado di esaminare criticamente e scientificamente un grande numero di lingue con configurazioni assai differenti, la loro base di confronto si è estesa. Che lui dice, sino a gran parte dell'Ottocento, anche i linguisti, anche gli studi di linguistica, erano in contatto con lingue diverse ma molto simili tra loro, le lingue indo-europee. Tutte le lingue indo-europee, ripeto, quelle della famiglia neolatina, della famiglia germanica o della famiglia slava, hanno in comune strutture grammaticali molto, molto simili, hanno una divisione in parti del discorso, verbi, nomi, aggettivi, avverbi, eccetera, che sono, diciamo, comuni. Hanno un sistema di declinazione dei nomi che si realizza in maniera diversa con i casi nella lingua slave, con le proposizioni delle lingue neolatine, ma comunque strutturalmente simili. Una coniugazione dei verbi secondo modi e secondo tempi che sono simili, che sono quasi uguali in tutte le lingue. Da questo, dice lui, i linguisti avevano ricavato che il modello di grammatica dell'indo-europeo fosse un modello per il pensiero, no? Vi ho detto la più radicale in queste conclusioni è il programma di ricerca linguistica di Chomsky, che sulla base di questo si è proposto addirittura di cercare una grammatica universale, ma le ricerche di Chomsky si sono più volte infrante contro l'impossibilità per lingue come il cinese o come le lingue amerindie o come le lingue del gruppo ugarlo-altaico di condividere strutture e organizzazioni interne con le lingue indo-europee, e quindi sulla difficoltà di dire c'è un sistema di categorie, addirittura un sistema di regole universale che sottostà a tutti i linguaggi, che è il punto di vista fondamentale di ciò. Torniamo a Benjamin Rewards. Quando i linguisti sono stati in grado di esaminare criticamente e scientificamente un gran numero di lingue con configurazioni assai differenti, la loro base di confronto si è estesa. Essi hanno avuto esperienza della interruzione di fenomeni fino allora ritenuti universali, e un nuovo ordine di significati è venuto alla loro portata. Si è trovato che il sistema linguistico di sfondo, the Linguistic Background System, in altre parole la grammatica di ciascuna lingua, non è soltanto uno strumento di riproduzione per esprimere idee, ma esso stesso dà forma alle idee, è il programma e la guida dell'attività mentale dell'individuo, dell'analisi delle sue impressioni, della sintesi degli oggetti mentali di cui si occupa. La formulazione delle idee non è un processo indipendente, strettamente razionale nel vecchio senso, ma fa parte di una grammatica particolare e differisce in misura maggiore o minore in differenti grammatiche. Analizziamo la natura secondo linee tracciate dalle nostre lingue. Le categorie e i tipi che isoliamo dal mondo dei fenomeni non vengono scoperti perché colpiscono ogni osservatore, ma al contrario il mondo si presenta come un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato dalle nostre menti, il che vuol dire che deve essere organizzato in larga misura dal sistema linguistico delle nostre menti. Sezioniamo la natura, la organizziamo in concetti e le diamo determinati significati in larga misura perché siamo partecipi di un accordo per organizzarla in questo modo. Un accordo che vige in tutta la nostra comunità linguistica ed è codificato nelle configurazioni della nostra lingua. L'accordo è assolutamente implicito e non formulato, ma i suoi termini sono assolutamente tassativi. Non possiamo parlare affatto se non accettiamo l'organizzazione e la classificazione dei dati che questo accordo stipula. Questo fatto è molto importante per la scienza moderna, perché significa che nessun individuo è libero di descrivere la natura con assoluta imparzialità, ma è costretto a certi modi di interpretazione, anche quando si ritiene completamente libero. La persona più libera da questo punto di vista sarebbe un linguista che avesse familiarità con moltissimi sistemi linguistici assai differenti, ma ancora nessun linguista è in questa posizione. Scrivo questo testo nel 1940, ma credo che ancora oggi sia giusto. È molto difficile che una sola persona padroneggi bene la gran parte delle lingue indoeuropee, la gran parte delle lingue del gruppo sino-tibetano e la gran parte delle lingue del gruppo uralo-altaico, cioè è veramente difficile, cioè si può conoscere qualcosa, ma siamo così indotti a un nuovo principio di relatività. È l'unica volta in cui in tutti gli scritti di Wolf parla di queste supposizioni come di un principio di relatività. Siamo così, però, una volta almeno lo dice, siamo così indotti a un nuovo principio di relatività, secondo cui differenti osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo, a meno che i loro retroterra linguistici non siano simili o non possano essere in qualche modo ugualmente tarati. Quindi è soltanto la somiglianza delle nostre lingue che ci consente una lettura unitaria, o non c'è nessuna razionalità, non c'è nessun modello di razionalità universale che sia indipendente dal linguaggio. E lingue diverse danno sistemi di razionalità diversi. Lingue poco diverse danno sistemi di razionalità poco diversi, ed è per questo che un italiano, un tedesco, un inglese, un albanese e un russo si possono più o meno capire, perché le loro lingue sono diverse ma hanno una struttura simile, quindi conducono verso un modo di pensare simile. Ma un europeo e un cinese, un europeo e un coreano, un europeo e un giapponese devo dire che questo fatto è visibilissimo per esempio per i rapporti dell'Occidente con tutte le culture. Le culture orientali sono state quasi sempre travisate dalle culture occidentali. La più diffusa tra esse, che è quella giapponese, non è quella, diciamo, cinese, se voi pensate ai travisamenti a cui ha dato luogo, pensate a un personaggio come Mishima, si sono date tutte quante letture di tipo occidentalizzante di questi personaggi, cioè era l'aspirazione, era come dire, Edward Said, che è un palestinese morto da poco, che ha vissuto proprio gran parte della sua vita negli Stati Uniti, ha scritto un libro molto importante che si chiama Occidentalismo, e come dire, Said era uno che parlava una lingua semitica, quindi una lingua di una famiglia totalmente diversa dalle nostre, dall'indoeuropeo, ma come dire, culturalmente era vicino all'Europa, perché è uno di quelli che stavano sulla sponda del Mediterraneo. Comunque, in questo suo libro, scritto quando era già negli Stati Uniti, Said analizza, diciamo, analizza l'Oriente, in particolare il Medio, diciamo, Oriente, come è stato visto, letto nell'Occidente, e dimostra con dovizia di particolari che l'Occidente ha sempre, ma come fa qualsiasi cultura, ma l'Occidente, quella occidentale, in modo particolarmente odioso. Perché dico odioso? Perché traveste le sue preferenze, la sua, diciamo, lettura da chiave di lettura universale. Noi abbiamo sempre letto, guardato il Medio Oriente filtrandolo attraverso le nostre categorie culturali, esattamente come ha fatto gli Stati Uniti con l'Iraq e con la cosa, quando hanno favoreggiato e flatterato di esportare la democrazia, di portare la democrazia. Tutto questo è puro e semplice imperialismo culturale, è prendere le proprie di preferenze, ciò che per noi è frutto, ora la cosiddetta democrazia per noi è frutto di una storia lunga che affonda le sue radici a 5 secoli prima di Cristo in alcune città della Grecia, e poi nei liberi comuni medievali, e poi nella protezione degli stati, cazzo, secoli, secoli e secoli. Noi abbiamo trasformato tutto ciò in valori universali, idee astratte, valide per ogni popolo, per ogni paese, per ogni cosa, e addirittura pretendiamo di fare la guerra e di imporre agli altri questo genere di cose. Ma anche se noi non facessimo la guerra, anche se noi non colorassimo questa nostra, diciamo, maledetta e deplorevole aspirazione all'universalismo con dei gesti bellici, ciò nonostante, anche in assenza di conseguenze così, diciamo, violente, sarebbe comunque un gesto di imperialismo culturale, sarebbe comunque la pretesa di dimenticarci della concretezza, dell'origine concreta, storica, processuale di ciò a cui noi siamo arrivati, giusto o sbagliato, nel bene o nel male, con un certo processo storico, e scambiare la nostra storia per un sistema, per la diciamo esistenza di la stessa cosa abbiamo fatto con la scienza, la scienza contemporanea, e lo spiega bene Worf nelle parole che seguono, è solidale con la nostra storia, con il nostro sistema di pensare, ma non è l'unico modo di vedere il mondo, neanche dal punto di vista scientifico. Il fatto che la scienza, il fatto che cosa che Worf non dice, ma che possiamo aggiungere noi, il fatto che l'Occidente abbia esportato queste sue idee, le abbia imposte di fatto al resto del mondo, come sta imponendo un sistema di vita, come ha, virgolette, imposto da un certo punto di vista il capitalismo alla Cina, per esempio. E la Cina ci sta, stiamo dimostrando però sufficientemente dal suo punto di vista, insomma, astuta dal combinarlo con una serie di elementi autoctoni, cioè della sua propria tradizione, a prescindere da quanto possano essere più o meno simpatici a alcuni di questi elementi, per esempio l'assenza di libertà politiche, che certo noi possiamo deplorare, ma non possiamo pensare che la Cina faccia a meno d'un botto dei suoi 5.000 anni di storia, che sono altrettanto importanti e altrettanto fondanti dei nostri, perché la Cina rappresenta una delle più antiche civiltà, soltanto che la Cina può vantare 5.000 anni di sostanziale continuità da quando si è formata ad oggi, con tutto, ovviamente, con tutte le variazioni del caso, mentre noi abbiamo almeno 4 o 5 cesure fondamentali dalle prime civiltà assiro-babilonese ed egiziana, che fanno parte della nostra cosa, a quella greca, a quella romana, alla cristianità e alla modernità. Noi abbiamo almeno 4 o 5 discontinuità forti nella nostra storia, di questi 5 millenni, più forti di quelle che non abbia conosciuto la cultura, cinese. Concludiamo, adesso vi leggo delle cose che vi ho già detto prima, ma Worf le dice meglio di me, quindi questa conclusione è piuttosto sbalorditiva, per cui osservatori differenti non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo. Questa conclusione è piuttosto sbalorditiva, non è così evidente se confrontiamo tra loro soltanto le lingue europee moderne, con forse il latino e il greco aggiunti per buona misura. Tra queste lingue c'è una unanimità nelle configurazioni principali, che a prima vista sembra produrre la logica naturale. Ma questa unanimità esiste soltanto perché queste lingue sono tutte dialetti indoeuropei, costruiti sullo stesso piano fondamentale, trasmessi storicamente da quella che un tempo era una sola comunità linguistica. Su questo ci possono essere dubbi che ci sia stata davvero una comunità linguistica, ma evidentemente Worf era convinto anche lui dell'esistenza di una lingua indoeuropea, ma anche se non fosse così, la parentela tra le nostre lingue è molto chiara. Perché i moderni dialetti delle nostre lingue hanno tutti cooperato alla costruzione di una cultura comune, e perché la maggior parte di questa cultura e i suoi aspetti più intellettuali sono derivati dal retroterra linguistico del latino e del greco. Così questo gruppo di lingue, le lingue indoeuropee, soddisfa il caso speciale della clausola che comincia con "a meno che" nella formulazione del principio precedente, differenti osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo, a meno che i loro retroterra linguistici non siano simili o non possano essere in qualche maniera tarati ugualmente. Da questa condizione segue l'unanimità nella descrizione del mondo nella comunità degli scienziati moderni, ma bisogna ricordare che tutti gli osservatori moderni che parlano lingue indoeuropee non è la stessa cosa che tutti gli osservatori. Che gli scienziati moderni cinesi o turchi descrivano il mondo negli stessi termini degli scienziati occidentali significa naturalmente soltanto che essi hanno adottato in blocco l'intero sistema occidentale di razionalizzazione e non che essi hanno confermato quel sistema dal loro punto di osservazione originario. Quando le lingue semitiche, cinesi, tibetane o africane differiscono dalle nostre, la divergenza nell'analisi del mondo diventa più evidente. E quando si aggiungono le lingue indigene delle Americhe, dove per millenni le comunità linguistiche sono andate per la loro strada, indipendentemente l'una dall'altra, e dal vecchio mondo, il fatto che le lingue analizzano la natura in modi diversi risulta lampante. Vengono alla luce la relatività di tutti i sistemi concettuali, incluso il nostro, e la loro dipendenza dalla lingua. Il fatto che gli indiani d'America non vengano mai chiamati a fungere da osservatori scientifici non nega l'asserto. Escludere gli elementi di conoscenza che le loro lingue offrono riguardo a quello che la mente umana può fare è come aspettarsi che i botanici non studino nient'altro che le piante alimentari e le rose di serra e poi vengano a dirci com'è il mondo delle piante. A me pare che basti così dal punto di vista. Allora, la conclusione di questo, e ho deciso oggi che effettivamente non vado più avanti su questo argomento nelle prossime lezioni, quindi ci facciamo. Discuteremo di insomma tutt'altro. La mia conclusione provvisoria quindi è che l'aspirazione all'universalità dei concetti e quindi a una supposizione universalista che mi pare così bene ed efficacemente criticata da Worso che non ho bisogno di aggiungere nulla di mio. È però comprensibile, perché è fondata. Il suo fondamento sta esattamente nel dispositivo linguistico e sta esattamente nella eccessiva ricchezza del dispositivo linguistico. È come se gli esseri umani fossero in qualche maniera spaventati da tutte le cose che possono dire sul mondo e da tutti i mondi che possono costruire e dalla, come dire, ricchezza che il linguaggio, anche un solo linguaggio, ma tanto più se li consideriamo nella loro totalità, insomma, nel loro numero, come se fosse spaventato dalla ricchezza della produzione di questi linguaggi. E quindi certamente per motivi pratici o per una serie di motivi, adesso dirò un'altra possibile componente di questa cosa, ma insomma per restare a questa per il momento. Allora una buona misura, evidentemente, una buona controindicazione per questa proliferazione, diciamo, di idee sul mondo, è sembrata a molte culture, ma a quella occidentale in particolare, che era più, proprio perché è basata sull'alfabeto, su un sistema di scrittura molto analitico e molto, diciamo, preciso, quindi noi più di altre culture abbiamo questa tentazione, un po' tutte ce l'hanno. Nelle lingue del Mato Grosso di solito ogni tribù definisce se stessa gli uomini, e la tribù vicina non sono uomini. Quindi diciamo un po' di universalismo c'è anche lì, però nessuna tribù del Mato Grosso ha mai cercato di imporre il proprio punto di vista o il proprio sistema di valori neanche ai propri vicini, quindi sono più tolleranti da un sacco di punti di vista. Gli occidentali lo sono meno per una serie di motivi, per questa, ecco. Allora è come se noi avessimo, è come se l'uomo occidentale avesse cercato di esorcizzare questa eccessiva ricchezza del proprio strumento linguistico, che avrebbe potuto condurre a una destabilizzazione, al continuo rivoluzionamento, alla continua creazione di novità, questo, diciamo, l'ancoramento a una pretesa verità. A una pretesa verità universalmente e stabilmente fondata. Il paradosso è che però, lungi da me, io non penso che ci sia nessuna filosofia della storia, però forse qualche fondamento storico ce l'ha il fatto che l'ultima fase di questa lunga storia che si chiama cultura occidentale si chiama capitalismo. E il capitalismo è esattamente quel sistema che per sua definizione rivoluziona se stesso in continuazione, deve rivoluzionare se stesso, deve ogni volta, deve distruggere modi di produrre, crearne di nuovi, deve bruciare ricchezza finanziaria per rilanciare, cioè è condannato alla innovazione. Ecco perché è nell'epoca del capitalismo, nell'epoca della modernità, che è più evidente, è più stridente la contraddizione tra diciamo l'universalismo, che ha in sé una componente di conservazione, di come dire, contraria al come dire, divenire, contraria al movimento, contraria alla trasformazione, e invece in lo stesso sistema economico e sociale che porta alla formazione sociale a rivoluzionarsi costantemente anche nei termini della sua composizione interna, per esempio delle classi. Abbiamo visto cosa ha fatto il capitalismo postfordista sulle classi, le ha trasformate profondissimamente, le classi tradizionali, classi che esistevano quando ero piccolo io, esistevano e avevano un senso sociale quando ero giovane io, quando ero piccolo io, oggi 40 anni dopo non esistono più o hanno un senso totalmente diverso. Proletariato e borghesia sono due termini oggi privi di senso dal punto di vista, perlomeno nel modo in cui ne ha conosciuti sino a 30 anni fa. Non ci sono più, non c'è più né quella borghesia né quel proletariato, ci sono altre classi, certo ci sono altre disuguaglianze, nessuno dice di no, ma quelle classi lì non ci stanno più, non hanno più lo stesso rapporto. Ecco. Allora perché questo? Questo è tanto più stridente ora, dà tanto più fastidio l'idea che un sistema di questo tipo a esportare la democrazia, che questo sistema parli tanto di questi cosiddetti diritti umani universali che si rivelano essere niente di più che un'ennesima occasione di business. Basta con questa storia della bontà delle ONG e di tutti questi cazzo di sistemi. Il 90% delle ONG sono un modo nuovo di organizzarsi economicamente e di fare profitti in modo diverso, per quanto si chiamino no profit, in realtà generano profitti e lanciano e sono volani di accumulazione economica per certi settori industriali. Benissimo, però smettano di dire che fanno aiuti umanitari, perché è intollerabile questa cosa. Questa cosa è particolarmente, cioè la contraddizione è tanto più eclatante da questo punto di vista. Quindi generalmente l'aspirazione all'universalismo è radicata nel linguaggio, è particolarmente radicata nella nostra tradizione della cultura occidentale. Certo rimane un problema. Perché c'è un'altra ragione molto molto evidente per la quale l'universalismo, per quanto indifendibile, io credo, totalmente indifendibile, non c'è nulla che se noi analizziamo razionalmente gli stessi strumenti che fondano l'universalismo lo autocondannano alla inconsistenza, alla impossibilità della fondazione. E però, come in ogni cosa, il problema rimane. Se è vero che l'universalismo è così infondato, così infondabile, così indimostrabile, perché ha avuto così tanto successo? Perché è indubbio che abbia avuto successo. Tutte le culture che si sono susseguite in un modo o nell'altro hanno sempre riproposto qualcosa di questo genere. Ora, se noi abbandoniamo definitivamente l'idea che il linguaggio sia uno strumento per descrivere il mondo, il linguaggio è uno strumento d'azione, e siccome noi siamo una specie Homo sapiens che ha avuto un certo successo, molto molto limitato per ora, ma insomma per quel 1,5 milioni di anni che è durata la nostra linea evolutiva, abbiamo avuto successo, finora non ci siamo estinti, ce la stiamo mettendo tutta per estinguerci, ma per il momento non ci siamo estinti. La conclusione che dobbiamo fare è che il linguaggio è uno strumento abbastanza buono, è una modalità di un certo successo nella lotta, darwiniana, Sì, perché se no ci saremmo estinti già da quel pezzo, se no non sarebbe forse neanche nato. Per quello che possiamo saperne adesso, che siamo ai nostri inizi, ripeto, non ci metto solo Homo sapiens, ci metto almeno l'ultima parte di tutta la linea evolutiva degli ominidi, che comincia da molto prima, ma almeno 1,5 milioni di anni fa. Non è tanto, non è molto, però non è neanche tanto poco. Cioè, si può dire che... Allora, questo è un problema di cui l'anti-universalista deve tenere conto. Non sta a me dirvi come debba, insomma, tenere conto, perché ognuno poi di voi se lo deciderà per conto suo, però io mi limito per il momento a suggerire questo. Che, come dire, si può, che è lecito separare il fondamento, la fondabilità, la dimostrabilità, la base oggettiva di un qualsiasi comportamento dalla sua approvazione o meno. E allora, come il relativista non esita a utilizzare il concetto di verità nella vita quotidiana, non c'è niente di male, e anch'io mi comporto sempre e utilizzo questo concetto tutti i giorni, evidentemente, perché non è possibile fare in modo, diciamo, diverso con il linguaggio, ma contemporaneamente, quando rifletto su questo, sono ben deciso a difendere l'infondatezza e l'infondabilità di un concetto come quello di verità. Nello stesso modo, io credo, analogamente, posso accettare l'esistenza di una tendenza verso l'universalismo in buona parte delle culture umane, nella grande maggioranza delle culture umane, e contemporaneamente, come dire, demolire la sua fondatezza, cioè minare la sua fondatezza, affermare, quantomeno distanziarmi dalla sua pretesa di essere fondato e di essere dimostrabile. Per me le posizioni relativiste che contano, tra cui il metodo, sono queste, non quelle di chi afferma con altrettanta sicurezza e con altrettanto orgoglio l'infondatezza di qualche cosa contro l'altro. No, il vero relativista, secondo me, afferma l'indimostrabilità della fondatezza di alcunché. Non esiste nulla di universalmente, perché l'unica autorità vera che un relativista monista accetta è quella del processo evolutivo, ma anche il processo evolutivo non è fondato su nulla, è il risultato di una serie di eventi totalmente casuali che si sono disegnati e hanno fatto in modo che agli occhi di animali portatori di linguaggio tutto questo abbia un significato, come ci ha spiegato Lévi-Strauss in quella pagina bellissima. Nel momento in cui abbiamo il linguaggio, da un momento all'altro l'universo ci appare sensato. Poi ci metteremo millenni per mettere a posto le corrispondenze tra dei dati, ma all'improvviso diciamo, cazzo, l'universo ha senso. Ecco, questa nostra. Ma il fatto che l'universo abbia un senso per noi dal punto di vista linguistico non significa che tutto sia dimostrabile, che tutto sia fondabile. Anzi, nulla è realmente dimostrabile sino in fondo, nulla è realmente fondabile sino in fondo. Buona Pasqua e ci vediamo dopo le feste.